rimaniamo fuori pure quando fuori piove. Sparco queste suole fuori fino a quando il giorno muore. In strada anche se lei non mi vuole, ma oggi c'è il sole. Sì, oggi c'è il sole. Rimaniamo fuori perché ci stavamo dentro. In questa merda sono al centro, il quinto elemento, fuori in mezzo al vento. Scrivo il mio testamento con 3G nel giacchetto. Questi danno 5 e si prendono 100. Che l'hip hop è morto, ve l'avevo detto. No, che non la smetto. Il tuo primo mi sta stretto. Ho scavalcato il muretto e vado dove gli altri non mettono un piede. Perché da quelle parti in foto non vengono bene. Se ti metto i miei panni, fidati, un giorno ti basta per capire che le tasche mie non sono piene. Siamo fuori dove puoi trovare solo iene. Fuori classe, fuori rotta, siamo fuori serie. Fuori dai copioni, fuori dalle scene. Voi andate fuori dai coglioni una di queste sere. Puoi vedere? Ci addormentiamo da soli, con gli occhiali da sole. Non chiudo occhio da giorni, se resti ti prego non fare rumore. Alle 6 di mattina, sulle strade il vapore. Non fottiamo la vita, ci facciamo l'amore. Fratello, pensi che non scrivo quello che voglio? Quando mi esprimo sul foglio c'è il mio destino. C'è i pensieri che mi tolgono il respiro. Questi scemi pensano a farmi fare le foto da un finestrino. Io sorrido perché sono vivo e continuo ad andare sempre dritto. Quando sono un bivio perché non riesco a stare zitto. Sono stato il primo e mi prendo di diritto tutto ciò che è mio. E questo è il motivo per cui resto fuori. Restiamo fuori, fuori, fuori. Fuori, fuori, fuori, fuori. Restiamo fuori, fuori, fuori. Fuori, fuori, fuori, fuori. Restiamo fuori, fuori, fuori. Fuori, fuori, fuori. Restiamo fuori, fuori, fuori. Fuori, fuori, fuori, fuori. Hey. Rimaniamo fuori, bruciamo quei fiori, beviamo i liquori. Hey. Sogniamo i milioni, non erano ricchi i nostri genitori. Hey. In mezzo ai tuoni aspettiamo ancora che il tempo migliori. Mi hanno detto che a stare là dentro ci muori. Io resto fuori. Devo dire che non mi piace la piega che sta prendendo il rap ultimamente. Con tutta questa gente che della musica non gli frega niente. Fuori il prossimo concorrente o resta indifferente. Perché siete come le chiamate dai call center. Davvero non posso prendervi seriamente. Scusami, ma questo non prende. Che tanto non state in classifica e questo un po' mi gratifica. La prendo in maniera pacifica. Per fare sta merda e portare in alto nel cielo c'è chi si sacrifica. Vedere la vetta vi faccio fare una visita. Essere veri non sapete cosa significa. Ciao. Resto in mezzo ai suoni, dove la notte non si accendono i lampioni. Tra i sintetizzatori, le gioie e i dolori, le spine nei cuori, io resto fuori. Yeah.